L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati per questa prima volta di una serie di appuntamenti che una volta al mese ci porteranno a parlare di suolo. Abbiamo avuto già l'occasione di dire in altre puntate che questo 2015 è l'anno internazionale del suolo e allora l'altro pianeta si prende l'impegno di parlare di suolo almeno una volta al mese. Lo faremo con interviste e approfondimenti e con il fondamentale aiuto dei nostri, ormai noti anche a voi ascoltatori, accompagnatori su questi temi che sono Fabio Terribile, benvenuto. Salve a tutti. Professore di pedologia all'Università degli Studi di Napoli, Federico II, presidente della Società Italiana di Pedologia, e Paolo Pileri, benvenuto anche a lei. Buongiorno a tutti. Ricordo, professore associato di pianificazione territoriale ambientale al Politecnico di Milano. Parliamo di suolo a partire da una intervista che abbiamo fatto recentemente a Roberta Sardone, che è la curatrice dell'annuario dell'agricoltura pubblicato a fine dicembre dall'INEA, Istituto Nazionale di Economia Agraria, che ora non si chiama più così perché col nuovo anno l'INEA non c'è più, ma è stato accorpato al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, e hanno dato vita a questi due enti insieme al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Questo giusto per mettere i puntini sulle i. Comunque l'annuario è ancora a firma INEA e ci presenta lo stato dell'agricoltura italiana nel 2013 con uno sguardo già verso il 2014. Spezzeremo questa intervista in due blocchi, diciamo così, in modo da poterla commentare con i nostri ospiti. Qual è la base del discorso? Se nel 2013 il PIL del paese andava già male, il settore agricolo invece al contrario era andato meglio, quindi si era sperato in una sostanziale tenuta. Le anticipazioni sul 2014 invece ci parlano di un arretramento. Il settore ha sofferto molto per il clima atmosferico, per alcune fitopatie importanti che hanno colpito anche alcune produzioni eccellenti italiane, come ad esempio, lo sappiamo tutti, l'olio d'oliva, e per il complessivo comunque clima economico sfavorevole che ha decretato uno stop della domanda. Poi sono arrivate addirittura le sanzioni alla Russia, quindi insomma la situazione è precipitata e difficilissima e ha avuto riflessi sulla occupazione in agricoltura. Allora io chiedo al professor Terribile, al professor Pileri, di ascoltare con noi questo primo passaggio della intervista a Roberta Sardone. Il 2013 e il 2014 hanno avuto dei segnali sull'occupazione coerenti, ma che si sono, diciamo, manifestati in due modalità diverse. Per esempio, partendo nel 2012 non era diminuito il numero degli occupati e questo aveva fatto in qualche modo sperare che il settore agricolo fosse stato in grado di tenere di fronte ai problemi occupazionali che attanagliavano invece il resto dei settori. Però era diminuito l'utilizzo del lavoro, cioè gli occupati erano rimasti sostanzialmente invariati, però era diminuita la quantità di lavoro che questi prestavano in termini di unità standard di lavoro o realizzate in un anno. Invece c'era stato già un grosso aggiustamento nel 2012. Nel 2013 si è sommato invece una vera e propria fuoriuscita di occupati dal settore, come quindi se nel 2012 il settore avesse provato a resistere, ma nel 2013 abbia dovuto poi arrendersi in qualche modo, forse sì. Ma quindi è un po' un falso mito questo dei giovani che tornano alla campagna, oppure sono numericamente pochi? Sono comunque numericamente pochi giovani in agricoltura. Diciamo che l'agricoltura ha le sue fragilità interne, che tanto si sono riversate per esempio sulla componente femminile, di cui forse si parla poco, che ha sofferto di più, cioè in questo clima di espulsione di manodopera sono fuoriuscite più donne che uomini, così come è cresciuta invece la manodopera di origine straniera, che è una manodopera più fragile. Venendo alla componente dei giovani, insomma, se parliamo al di sotto dei 34 anni, per proprio riferirci proprio ai giovanissimi, con un'incidenza nel settore agricolo del 19%, mentre nel resto dell'economia sfioriamo il 24%. Quindi comunque la componente dei giovani, che è in generale in difficoltà in questo momento nel paese, ce lo dicono continuamente dati di rilevazione dell'Istat sulle forze lavoro, in agricoltura è ancora più fragile. È più fragile, ma questo non vuol dire che non ci siano dinamiche all'interno, alcune forme di ricambio ci sono prospettive per i giovani che sono collegate ad azioni di politica, sono collegate anche in qualche modo a un ritorno dei valori della terra, insomma, di quello che rappresenta una scelta di vita in agricoltura. Per di più, sicuramente i giovani che tornano in agricoltura hanno intellettualmente una propensione a processi di diversificazione dei redditi, probabilmente entrano in questo settore con un approccio gestionale differente. Questo è molto importante perché in un clima di difficoltà come quello per esempio del 2014, i dati ci dicono comunque che le attività di supporto all'agricoltura, quelle connesse dei servizi, dall'agriturismo alla trasformazione in azienda, alla prestazione di servizi per conto terzi, quindi diciamo reti di aziende che collaborano e si prestano reciprocamente servizi tra di loro, sono invece le componenti che comunque tengono, crescono negli anni e sono arrivate a pesare notevolmente sulla produzione agricola del nostro paese. E così appunto Roberta Sardone dell'ex INEA, i giovani sono pochi, ma quei pochi sono più formati e intraprendenti. Io so che sia per il professor Terribile che per il professor Pileri questo è un tema, diciamo, sensibile, questo delle aziende multifunzione. Terribile, come interpreta, come giudica questo passaggio dell'intervista? Beh, chiaramente è molto importante perché lì c'è la speranza anche del paese, della ripresa del settore, no? È chiaro che però questi giovani da soli insomma non sempre andare molto lontano, cioè c'è questa grande propensione chiaramente dei giovani ad aprirsi, a cercare nuove strade, però bisogna anche dire che c'è una certa solitudine e non c'è sempre quel supporto necessario. Inoltre molti di questi giovani che ad esempio cercano di accedere, non so, a finanziamenti europei, mi vengono in mente i finanziamenti PSR e quant'altro, tante volte chiaramente hanno anche grandi difficoltà da un punto di vista anche degli enormi oneri di rendicontazioni economiche, eccetera, che le regioni e poi la Commissione richiede. Quindi è un qualcosa di importante di cui prendersi cura, ma dovremmo organizzarci per dare a loro maggiore supporto, anche per tenere insieme chiaramente la necessità di produrre reddito nell'azienda con ovviamente la necessità di avere approcci all'agricoltura e anche alla forestazione, allargandoci, più sostenibili. A questo proposito ho appena ricevuto comunicazione dall'Università di Bologna che si stanno organizzando proprio dei corsi per poter diciamo, fruire dei fondi europei in maniera corretta e anche, insomma, vincendo questi fondi, perché si presenta la documentazione fatta bene. Mi sembra anche questo un buon segnale, adesso poi approfondiremo l'argomento nelle prossime puntate. Professor Pileri, invece, per quel che la riguarda, io so che la notizia per lei è buona ed è un cavallo di battaglia, tra l'altro, del suo gruppo di lavoro, questo. Sì, nel senso che mi fa molto piacere che la multifunzionalità sia un elemento di tenuta del settore. Lo diciamo anche da tempo, anche e soprattutto nelle aree. Noi abbiamo le aziende agricole sono molto piccole, le aziende agricole italiane, quindi è chiaro che soffrono molto di più di altre delle economie di scala. Quindi però dall'altro hanno un paesaggio da gestire straordinario, sono immerse in ambienti sempre molto gradevoli, quindi è evidente che se si lavorasse a costruire come dire, le infrastrutture perché altri si avvicinassero alle aziende agricole, e quindi le aziende agricole potrebbero in qualche modo, come dire, diversificare la loro economia con dei nuovi clienti, beh, questo sarà bingo. Adesso ovviamente immagino che lei pensasse... Sì, pensavo a Vento che conta molto, esatto, anche su questo. Il progetto Vento, che è un progetto di infrastruttura ciclabile da Venezia a Torino, lungo il Po, attraversa territori che, se andiamo a contare tutte le aziende agricole che tocchiamo, sono più di 10.000 le aziende agricole. Ora è evidente che infrastrutture di questo tipo sono in grado di portare sul territorio 500.000 di persone all'anno che oggi non ci sono su quei territori e portano economie incredibili. Cioè, in Germania il cicloturismo, che passa tutto per le aree interne, quindi vuol dire che non tocchiamo le grandi città o le tocchiamo poco, bene, questo turismo in Germania lascia nelle tasche dei ristoratori e quindi di tutto il mondo del cibo 4 miliardi di euro all'anno, in Italia zero, perché non ci sono infrastrutture di questo tipo. Quindi, come dire, io saluto sempre tutto lo sforzo che si fa nell'aiutare il mondo dell'agricoltura a intercettare i finanziamenti che deve comunque avere, perché il lavoro che loro traggono non è sufficiente sicuramente per le spese che hanno. Però voglio dire, impariamo forse anche a investire nelle infrastrutture che possono rendere multifunzionale queste aziende agricole. Ora, il turismo fatto in un certo modo, il turismo non dell'auto ma lento, pensate anche a Santiago, a tutto il mondo anche della mobilità a piedi, sono infrastrutture straordinarie per il mondo dell'agricoltura, però hanno bisogno di progetti, hanno bisogno di programmazione, questa manca nel nostro paese. Sì, forse si tende sempre a confondere, adesso poi abbiamo la pausa per la viabilità tra non molto, si tende sempre a confondere il fatto l'azienda agricola multifunzione fa turismo, ma non ci si rende conto che una grande azienda agricola multifunzione non fa solo turismo, ma mantiene in vita anche il territorio, lo controlla, è sul posto, insomma tutta risolve una serie di problemi, no? Mi pare terribile che quindi ha senso, non è solo una questione economica di sviluppare il turismo. Sì, no, appunto la multifunzionalità è la nostra speranza, perché ovviamente nel vendere il prodotto l'azienda vende con esso anche una parte del territorio, aumenta la consapevolezza sul territorio, quindi il mondo agricolo è chiamato in questo senso a un salto proprio di mentalità, e quindi il collegamento con i giovani ancora da questo punto di vista è assolutamente calzante. Quindi bisogna produrre reddito, ma bisogna produrre consapevolezza, e nel fare questo di fatto si tutelano i territori. Questo ovviamente passa per una formazione che adesso c'è troppo poco rispetto alle sfide che abbiamo davanti. Insomma, l'Italia certamente è un paese che ha tantissimo, nonostante il saccheggio del nostro territorio, abbiamo ancora una chance, quella di poter tutelare insomma ciò che è rimasto e tutto ciò che è di bellissimo che abbiamo nelle aree rurali. Certo, e allora sull'agriturismo ci apre una speranza in un'ottica ovviamente di multifunzionalità dell'agricoltura e del paesaggio. L'altro pianeta. Ancora ben ritrovati da Laura Bettini per questa prima puntata del 2015 che dedichiamo ai temi connessi al suolo, perché il 2015, ve lo ricordiamo, è l'anno internazionale del suolo. Stiamo commentando con Fabio Terribile, professore e presidente della Società Italiana di Pedologia, e Paolo Pileri, professore del Politecnico di Milano, un'intervista a Roberta Sardone, ricercatrice dell'INEA, l'Istituto Nazionale di Economia Agraria, sull'annuario dell'agricoltura che è stato pubblicato questo rapporto a fine 2014. Abbiamo parlato della crisi economica e occupazionale del settore, abbiamo detto che tra i giovani pochi, comunque meno di quanto non si creda leggendo le cronache, sono tornati a lavorare in campagna, ma che comunque sono giovani più specializzati, inclini a fondare o a prendere in mano aziende multifunzione, vale a dire aziende che oltre alla coltivazione si dedicano ad attività agrituristiche, insomma ad ampio spettro, c'è la cucina, ci sono gli alberghi, l'ospitalità, la produzione di prodotti tipici, c'è il cicloturismo, ricordavamo il progetto Vento del Politecnico di Milano. Ora affrontiamo un altro aspetto, quello del costo e della disponibilità della terra, da cui dipende la possibilità di entrare e lavorare in questo settore, e chiudiamo in questo passaggio dell'intervista a Roberta Sardone con uno sguardo finale alla gestione del territorio italiano. Allora sentiamo e poi commentiamo. Oggettivamente entrare in possesso della terra in Italia è un'operazione difficoltosa, comunque abbiamo dei livelli medi di valore fondiario molto elevati a fronte di un settore che invece dà livelli di produttività del lavoro più bassi. Cioè, nel 2013 per la prima volta il differenziale tra agricoltura e altri settori produttivi si è ridotto a meno del 50%, ma è ovvio che in presenza di dati così le prospettive di reddito di chi investe in agricoltura sono, diciamo, meno allettanti comparativamente a quelli degli altri settori economici, a fronte però invece di costi di formazione delle aziende notevoli. Per fortuna, al fianco di questi lievi abbassamenti dei valori, che rispecchiano comunque ancora una volta, purtroppo lo ripetiamo come un mantra questo, il clima economico generale del paese, si affermano sempre più prepotentemente anche forme più flessibili, quindi diciamo c'è più ricorso all'affitto, a forme forse meno impegnative, no? Che consentono comunque attività di start-up aziendali. Beh, immagino che insomma se tanti lasciano le campagne come lavoro, intendo dire, ci siano molte parti del nostro territorio adesso abbandonate. È da mettersi in relazione con l'aumento della superficie boschiva italiana che voi segnalate? Sì, questi sono due fenomeni sicuramente correlati. Da un lato c'è un fenomeno di ridimensionamento della superficie agricola utilizzata e quindi degli abbandoni con tutto quello che ne comporta in termini di dissesto del territorio, che sono sotto gli occhi di tutti. Sotto il profilo forestale, sicuramente nelle zone collinari di montagna, che sono quelle più marginali e che subiscono per prime i fenomeni di abbandono, perché ci sono condizioni comunque sia di realizzazione dell'attività che di vita più difficili, e si sono manifestate nell'arco degli ultimi decenni delle forme di di riappropriazione di bosco su superfici che un tempo erano utilizzate per l'agricoltura. Infatti il bosco in Italia cresce, assolve un ruolo importante sotto il profilo ambientale, del presidio del territorio, di quello climatico. Ciò non di meno, siccome è bosco che nasce da questi processi, spesso è un bosco che non è gestito. C'è come una discrasia tra crescita della superficie e incapacità di utilizzare al meglio questa superficie che cresce. Noi per esempio utilizziamo un 25-30% della biomassa che annualmente è prodotta dai boschi italiani, mentre la media europea è del 60%. Purtroppo ci conferma il fatto che la gestione del territorio è molto lacunosa, ecco, per così dire, in Italia in generale. Mettiamola così. Insomma, gli effetti poi sono sotto, come dicevamo anche prima, un po' sotto gli occhi di tutti, insomma, no? Ma dobbiamo considerare anche tutto quello che spendiamo per il settore agricolo, perché comunque il settore agricolo è un settore che gode di un livello di sostegno pubblico di notevoli dimensioni, cioè un quarto del valore della produzione realizzata dall'agricoltura è rappresentato da sostegno pubblico. Quindi se noi le impiegassimo meglio questo quarto, probabilmente non avremmo bisogno ogni anno di metterci un quarto del denaro pubblico. Viene impiegato, diciamo, nel quadro di una logica, però forse non si può dire che, anche perché molta parte di questo sostegno deriva dalle politiche comunitarie, però sicuramente la capacità di legare meglio gli interventi, una visione strategica più complessiva, aiuterebbe a finalizzare meglio la spesa pubblica e a realizzare interventi più incisivi. Il tutto è anche reso difficile dall'assetto costituzionale del nostro paese, comunque, in cui diciamo l'autorità centrale decide alcune cose in agricoltura, ma poi ci sono tutte le deleghe previste dal titolo V della Costituzione. Allora Paolo Pileri, qui ci sono molti temi, direi molti spunti, ma la prima mia domanda spontanea è: ma insomma questo terreno agricolo costa tanto o costa poco? Qual è il prezzo giusto? Forse una trasmissione televisiva, insomma. Ma il prezzo giusto, come direbbero i miei studenti, dipende. E così non lo svegliamo. Dipende da cosa? ma dipende dal valore, come dire, che noi diamo al suolo, in quanto, come stiamo provando a dire, come dovrebbe dire in questo anno, in quanto riconosciamo nel suolo come dire, una fonte gigantesca di servizi e benefici che ci restituisce. A questo punto il suolo dovrebbe essere, come dice la stessa definizione europea di suolo, solo tutelato, punto e fine delle trasmissioni. Quindi come dire, è chiaro che se invece permane un'idea di merce, quindi come dire monetaria del suolo, qui sono i valori fondiari che fanno il gioco. Ed è chiaro che i valori fondiari aumentano tantissimo mano a mano che si avvicina alla città e ci si avvicina alle infrastrutture, e gioco forza la stessa agricoltura. Abbiamo raccolto tantissime testimonianze nel passato di questo. La stessa agricoltura, alla fine, tirata per la giacchetta, in crisi economica, non ce la fa, e di conseguenza molto spesso sono gli stessi agricoltori che vendono i suoli. Pertanto l'agricoltura fa fatica a comprare suoli per fare agricoltura, mentre purtroppo gli sviluppatori immobiliari fanno sempre meno fatica a comprare suolo, ma non per fare agricoltura, per fare qualcosa di morto, perché oggi il cemento che viene fatto sui suoli oggi non serve, mille volte, serve ad alimentare un meccanismo molto spesso distorto della finanza, che è un'altra questione. Però con la finanza vorrei ricordare a tutti che la sera poi mangiamo poco a casa, mentre il cibo che viene fuori dai suoi è un po'. Sì, io credo che poi dopo il suo collega terribile, insomma, su questo punto sia preciso, l'Italia non è che copre tutti i suoi fabbisogni, no? Certo. No, vabbè, anche prima si parlava di multifunzionalità, chiaramente anche il suolo svolge tutta una serie di funzioni, oltre alla produzione di cibo, ovviamente, filtro ambientale, stock di carbonio, stock d'acqua e quant'altro. Quindi ovviamente tutte queste belle funzioni, servizi ecosistemici che poi dovremo passare alle generazioni future, hanno ovviamente grande difficoltà a essere tutelate a fronte delle speculazioni, poi alla fine che tale così vanno chiamate, tipo quelle che accennava il professor Pileri. Quindi questi valori fondiari elevati sono una iattura. Io non ho soluzioni da dare, ma sicuramente è, credo, un qualcosa che su cui si lavora troppo poco a livello politico. Ed è difficile la tutela di questa risorsa così preziosa, fragile, che riceviamo da migliaia e migliaia di anni, a volte decine di migliaia di anni di storia della terra, e che è un valore appunto non monetizzabile, no? Ed è difficile poter competere con ovviamente le dinamiche speculative legate al consumo di suolo. Senta, lei diceva adesso della gestione del territorio anche da un punto di vista appunto politico, Roberta Scardone ci diceva, insomma, è un po' troppo frammentaria, ci sono troppi attori, è difficile poi dare delle direttive. Condivide? Io vorrei proprio su questo, ecco, dire una cosa importante che si collega a questo. La dottoressa dell'INEA ci ha ricordato che un quarto del valore della produzione realizzata dalle agricolture è rappresentata da sostegno pubblico. Cioè, significa che questo sostegno pubblico è un'enorme opportunità, chiaramente molto veicolata tramite l'Europa, ma è un'enorme opportunità se siamo in grado di costruire un quadro coerente. La politica chiaramente ha una grande responsabilità in questo, cioè il sostegno pubblico che ogni anno viene riversato al settore agricolo dovrebbe essere considerato una manna che noi dobbiamo utilizzare per cercare di produrre reddito, ma produrre anche ambiente per il paese. Allora, in questo senso, certamente la modifica del titolo quinto con le regioni, insomma, le tantissime autorità che decidono sul suolo, i ministeri, ce ne stanno 3-4, regioni, autorità di bacino, comunità montane, comuni, eccetera, rappresentano una enorme frammentazione ed è necessario cambiare proprio passo, cioè è necessario inventarci. E lì anche lì semplificare oppure semplicemente armonizzare, no? Nel senso che un conto è tagliare gli enti, accorpare come l'INEA, come abbiamo detto all'inizio, no? Lo uniamo a un altro e così via, però cioè, credo che sia anche una questione di armonizzare tutto. Certo, no, anzitutto quello, perché poi bisogna essere realisti, basterebbe quindi un quadro di coordinamento, appunto, di armonizzare con autorità ovviamente data a chi deve armonizzare, deve coordinare. Allora, professor Pileri, siamo proprio agli ultimi sgoccioli, non so se lei ha qualcosa da aggiungere. Ma sicuramente, visto che comunque abbiamo fatto questo, stiamo parlando del suolo anche perché è l'anno mondiale del suolo, proviamo a dirci però anche una cosa, che il filo rosso che attraversa un po' tutti i casi che abbiamo visto, anche quello che ci hanno raccontato e che vedremo nel futuro, io credo che avrà sempre come comune denominatore un'idea purtroppo offesa di suolo. Cioè, noi dobbiamo anche lavorare dal punto di vista culturale a dirci un attimino in faccia, negli occhi, se ci interessa occuparci del suolo, se a questo paese interessa occuparsi del suolo, con tutte le sue strutture amministrative che sono anche in sofferenza, che a volte non riescono a organizzarsi tra di loro, ma gli interessa da un lato, e dall'altro bisogna cominciare a lavorare anche sui cittadini spiegandogli che ciò che non si fa sul suolo, se vengono a mancare delle politiche sul suolo, di tutela del suolo, attenzione che è grave, perché tutto quello che accade ci riguarda, questa è un'altra questione importante. Ripeto, allora noi dobbiamo assolutamente chiudere perché i tempi sono esauriti, diciamo che agli ascoltatori che nell'agenda di Radio 24 e in particolare dell'Altro Pianeta questo tema c'è, se ci vogliono scrivere l'indirizzo email è l'altropianeta@radio24.it. Io ringrazio i nostri ospiti, ricordo Paolo Pileri, Politecnico di Milano, e Fabio Terribile, presidente della Società Italiana di Pedologia. Alla prossima settimana, alla stessa ora.